oggi dico basta. E mi riprendo e ci riprendiamo fino in fondo alla nostra autonomia di uomini, di politici, di cittadini della Repubblica Italiana. Non tratto, non negozio, non accetto mezze misure. Mi batto e mi batterò per un governo e una maggioranza in grado di ridare un senso alla giustizia come misura umana, legale e formale di civili rapporti tra uomini e le donne che abitano questo grande e straordinario paese che non merita lo spettacolo al quale è stato condannato da anni di inerzia e che purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Lasciamo la maggioranza, restiamo al centro, lasciamo la maggioranza, non diamo più il nostro impegno politico-parlamentare a questa maggioranza. Per noi è crisi governo, per essere chiari.